mondo del calcio che è un mondo del calcio. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Con Giorgio De Luca, il nostro autore Gianmarco Ferronato in regia, Alvise Falzone in redazione, abbiamo deciso di aprire con cori da stadio locali nella nostra Serie A questa puntata per due ragioni. La prima è che dopo la stiamo aspettando la prima giornata vera, tra virgolette, di Serie A, dopo i due trailers iniziali, ma questa è ormai un'abitudine, anche se molti giocatori sono stati in giro per l'Europa o per il mondo, alcuni si sono rotti. Non so quanto il test possa essere probante. La seconda è che l'argomento stadi vuoti sarà uno dei temi importanti di questa puntata, tanto che alle 15 Marco Belinazzo, che ha fatto un'inchiesta per il Sole 24 Ore, sarà con noi e parleremo di questo argomento. Pierluigi Pardo, buongiorno. Come va? Bene, tu dove vai a commentare la partita del weekend? Io vado a Pescara. Pescara, gran bel posto e gran bel calcio, eh? Sì. Quindi no, bella partita, tra l'altro, che promette molto, nel senso che è un test di Inter che deve, ha un solo risultato, credo non ci siano grandi discussioni, però il Pescara ha dimostrato già contro il Napoli e in fondo anche col Sassuolo di potersela giocare, quindi diciamo delle neopromosse, secondo me è quella in mezzo, il Cagliari è quella un po' più avanti, sì, come qualità complessiva, il Cortone è quella un po' più indietro, il Pescara secondo me attraverso il gioco e l'allenatore può, esatto, può provare a fare cose interessanti. Sono d'accordo, tra l'altro Pescara guida, guarda caso, la classifica delle squadre che hanno incrementato in maniera enorme il numero degli abbonati, è chiaro neopromossa, è chiaro grande entusiasmo, piazza importante, massimo oddio, bel calcio, però più 131,94% alla voce aumento degli abbonati, ed è merce rarissima, perché come ho detto Pier, più tardi parleremo degli stadi che si vanno svuotando sempre di più, ormai sta diventando spettacolo per pochi intimi. Continuo a pensare che la TV sia un fattore molto relativo in questo discorso, ma d'altra parte tutta mattina che stiamo facendo un sondaggio tra gli ascoltatori hanno risposto in moltissimi e davvero pochi citano la TV, cioè la presenza continua, costante della TV, ma che è una caratteristica dei giorni moderni in tutto il mondo. Molti, in pochissimi, dicono che non vanno allo stadio perché tanto la partita si vede in TV. No, beh, la TV è sicuramente una rivale, è inutile girarci attorno, nel senso che chiaramente il fatto che le partite siano visibili rende in certe circostanze una concorrenza in più, però innanzitutto io devo sgombrare il campo, ho lavorato a Sky, lavoro a Mediaset e posso dire che da questo punto di vista l'approccio di tutti i dirigenti che ho avuto è stato sempre lo stesso, l'ho ripetuto mille volte, ma è così, nessuno vuole stadi vuoti, quindi è assolutamente convenienza, oltre che diciamo che se facciamo questo lavoro c'è anche un elemento di passione, no? Ma anche da un punto di vista strettamente razionale, numerico, di prodotto, è sicuramente più bello che la partita abbia lo stadio pieno piuttosto che lo stadio vuoto, quindi le 20.000 persone in più allo stadio, se anche sono 20.000 telespettatori in meno, comunque ti rendono un prodotto migliore. Chiaro. Quindi da questo punto di vista proprio non c'è discussione. A me però Pierluigi, anche in Inghilterra, Germania, Francia, in paesi dove non hanno questo tipo di problema, gli stadi sono pieni, no? No, ma il punto, ragazzi, ci sono due elementi. Il primo è l'esperienza stadio e il secondo è il prezzo. Chiaro, perché... Cioè, oggi i diritti televisivi, poi Beninazzo ha i numeri, uno preciso, secondo questo punto di vista, ma i diritti televisivi rappresentano una parte molto importante, molto significativa degli introiti complessivi delle società di calcio italiane, la maggioranza, e quindi questi soldi che sono entrati negli ultimi 15 anni, 20 anni per le società dovevano portare a una riduzione del prezzo dei biglietti, questo è indiscutibile, oppure almeno un miglioramento dei servizi. Allora facciamo gli auguri. Io sono convinto che se i biglietti costassero la metà, sì, questo è uno, è certamente uno dei fattori, ma come poi vedremo, come d'altra parte, insomma, ho un piccolo campione delle risposte dei nostri ascoltatori, del tipo acquistare biglietti per lo stadio è diventato complicatissimo, troppo dispendioso, con una famiglia è impossibile. Poi ci avevo provato, ma tra tessere, impossibilità di acquistare almeno un mese prima, eccetera, è impossibile. Poi c'è chi scrive, oltretutto, giorni e orari più disparati. Bisognerebbe tornare alle 15 della domenica per tutti, vabbè, questo è un po' anacronistico. Io faccio gli auguri al vecchio Grifone, cioè al Genoa, che compie 123 anni di storia oggi, e quindi mi associo a Roberto di Genova. 800 24 00 24, se volete già prenotarvi, o se volete scrivere 349 238 6666. Comunque, tra i vari messaggi, perché non vado più allo stadio? Questa era la domanda tormentone di oggi, il più divertente di un tifoso milanista. Lo vuoi sentire? Pier? Vuoi sentire cosa ha risposto? Scusa, pensavo lo stessi lanciando. No. Vuoi sentire cosa? Te lo leggo io. Te lo leggo io cosa ha risposto il tifoso milanista. Allora, non vado più allo stadio perché Montolivo è il capitano. Onda alla 10 e il mercato lo fa un gobbo, con riferimento alla leggenda dei trascorsi da tifoso juventino di Adriano Galliani, hai capito? Sì, beh, cioè, il gobbo, diciamo che ha anche vinto qualcosa. Ha vinto qualcosa, e da lì è un po'. Che sia gobbo adesso, allora lo era pure prima quando vinceva. Esatto. E questo non toglie che negli ultimi anni abbia commesso degli errori, questo è evidente. Però per quanto riguarda Montolivo, dicevo che è uno scherzo. Sì, Montolivo non è tra i più graditi ai tifosi milanisti. Certo, Montolivo c'ha l'etichetta adesso addosso del giocatore scarso, improvvisamente. Insomma, ribadisco, non è chiaramente Maradona, ma non è nemmeno il calciatore più scarso del mondo. E Onda con la 10, stesso discorso. Cioè, è chiaro che non è il massimo della vita, è un giocatore medio. Perché il Milan in questo momento è una squadra media, quindi capisco perfettamente, cioè, al di là della comicità del messaggio c'è più di un fondo di verità. Sì, chiaro. Non è il Milan di altri tempi, però io credo che il problema stadio non sia legato tanto ai risultati. Per esempio il Napoli, so che ha dei brutti dati quest'anno, no? Sugli abbonati. Non granché, cioè, c'è stato un decremento che adesso ti leggo del 19,09%. Ecco, e parliamo di una squadra che è arrivata seconda, che è tornata in Champions League. Che ha fatto una grande stagione. Insomma, sì. Cioè, voglio dire, adesso sinceramente, una piazza come quella di Napoli, con l'entusiasmo che ha, con la passione per il calcio che ha, se non va allo stadio in un anno in cui parte la seconda in classifica, con la possibilità di giocarsela alla grande anche in Champions League, quando ci deve andare allo stadio? Ma questo ti fa capire che ci sono altri motivi, ad esempio i prezzi, che sono prezzi abbastanza assurdi. A Roma c'è un problema oggettivo. Adesso di oggi c'è la notizia che ci sono 4 o 5 tifosi della Roma che sono stati buttati di 167 euro perché non erano al loro posto ed erano, non si è capito se su una balaustra o semplicemente su un altro seggiolino durante Roma Porto. Ora, per carità, è giusto che ognuno si sieda al suo posto, va benissimo, è chiaro. Però mi sembra un minimo di tolleranza. No, ma tra l'altro, leggendo il numero degli abbonati del Napoli, 5.200. Ora non voglio fare paragone con la Juventus, sold out, 29.300 abbonati, praticamente li vende tutti e sappiamo che è una situazione del tutto particolare. Però per il Napoli 5.200 sono onestamente pochi. La classifica la chiude la Lazio con 4.000 abbonati, ma anche lì ci sono problemi di altra natura. Ma poi ne parliamo con calma. Traffico. Tutti convocati. Qui altro che ciupiti di Bobo Viel. Convocati. Pierluigi, allora torniamo a parlare degli stadi con i molti ascoltatori che stanno chiamando, degli stadi vuoti italiani, 800240024, cosa che faremo anche più tardi con Marco Bilinazzi con i numeri in mano dopo le 15, numeri pubblicati al Sole 24 Ore. Intanto torniamo sul primo round di qualificazioni mondiali con il nostro carissimo nemico, anzi con il nostro amicissimo Gianni De Biasi. Ciao Carlo, ciao mister. Ieri Genta ha dato l'annuncio alla nazione del gol del 2-1. Ho dato l'annuncio alla nazione, sì, in diretta. Sono fermati, ci sono state scene a Bemus Gol. Gente che ha inchiodato sulla Pero Cormano, come direbbe il nostro amico Leo Turrini, quando è stato il 2-1. Beh, diciamo che in 14 minuti più recupero siamo riusciti a fare un gol alla Macedonia, che ci ha dato i tre punti, sono i primi tre punti che facciamo. Prima partita, era importante per noi partire con il piede giusto, ci siamo riusciti, è una partita per noi non facilissima e credo che questo sia il miglior augurio per tutti i nostri tifosi, che possono vivere ancora quello che abbiamo fatto vivere recentemente. Sì, due cose: una partita con la coda l'avevi mai vissuta? No, prima volta no, no, è la prima volta anche per me, quindi un fatto nuovo, però il fatto che sia finito bene va bene, va benissimo così. Sì, e seconda cosa, all'Albania non potrai più magari raccontare che l'importante è solo partecipare, almeno adesso, no Gianni? Fino a questa prima partita sì, poi ce ne sono altre 9 e quindi 13 mesi ancora davanti a noi per cercare di ribadire che stiamo lavorando nel verso giusto. Però ho detto più volte che il nostro campionato vero è giocare contro Israele, contro la Macedonia, contro Liechtenstein, e quelle sono le partite per noi decisive per cercare di fare il meglio di noi stessi. Il resto poi contro Italia, contro Spagna, le cose vengono da sole, perché la motivazione della qualità dell'avversario e tutto quello che c'è dietro motiva sicuramente i miei giocatori più che altri avversari. Però Bardo, siamo tutti d'accordo che l'Albania è la terza forza del nostro girone, no? Ma assolutamente, speriamo, non ci perdonerai, speriamo che sia la terza forza, che sia qualcosa di più, perché voglio dire, grazie Pierre, gentilissimo. Ma è la verità, la prossima volta ti vedo ti do un calcione nel no, io spero, chiaramente spero che Italia e Albania passino il turno e la certo, Spagna, e la Spagna a casa, e questo è l'obiettivo, bravo, questo è l'obiettivo. Però è chiaramente la terza forza. No, volevo chiedere al mister come si preparano 14 minuti di partita, nel senso che immagino che ci siano delle specificità, nel senso che chiaramente sì, non c'è sì, un lavoro. Sì, per oggi noi abbiamo fatto l'altra sera un primo tempo molto buono, il secondo dove ci siamo addormentati. Ho spiegato soltanto che 14 minuti sono lunghissimi e che non dobbiamo bruciarli nei primi secondi, fare attenzione e cercare di tirare fuori quello che abbiamo sempre avuto, il cuore. E tutte le qualità che questa squadra, quando gioca da squadra in maniera intensa, può riservare agli altri. Abbiamo fatto gol su situazione di pallina attiva e questo mi fa piacere, perché è l'ennesima volta che mettiamo a frutto quello che è un po' il nostro lavoro. Senti Gianni, posso farti una domanda indiscreta? Ci conosciamo da molto, sì. Me lo permetti? Falla, tanto siamo tra di noi. Non ci ascolta nessuno. Il tuo nome lo sappiamo bene, insomma, è uscito da molte parti, è stato accostato in estate ad altre nazionali importanti, dall'Inghilterra al Belgio alla stessa Italia. Possiamo oggi raccontare che sono iniziate le qualificazioni europee, sei il CT dell'Albania amatissimo e ti avrebbero incatenato lì pur di non lasciarti andare. Quanto c'è stato di realistico in queste voci? È molto, molto, specialmente quelle con l'Italia, molto più reali di quelle dell'Inghilterra, sinceramente. E invece quelle col Belgio sono stato anche lì abbastanza in ballottaggio, però ho fatto una scelta diversa e va bene così. Io in fondo avrei dovuto rompere un contratto che era già in essere, però sai, si cerca sempre di provare a guardare anche più avanti per cercare nuove sfide, nuove emozioni, anche se l'Albania ormai per me è come casa mia e mi sento veramente capire. Forse è arrivato anche al massimo di quello che poteva essere uno sviluppo, però c'è sempre una sfida dentro, cercare di far meglio di quello che abbiamo fatto finora. Hai capito Pardo? Quindi che c'è stato? Cioè, incontri? Facci fare sì, un po'. da un po' di voyeurismo, dai, telefonate. Di voyeurismo. Ci sono stati incontri sicuramente con guarda, incontro anche Tavecchio adesso qui all'aeroporto di Roma, perché lo saluto anche. Presidente, buongiorno. Tutto bene? Lei? E raccontateci la trattativa. Sì, bene, bocca al lupo, ci vediamo tra un po'. Ciao, arrivederci. Scusa, l'abbiamo fatta in diretta, ti piace questo scuro? Straordinario, tu stavi dicendo di quando hai incontrato Tavecchio e hai incontrato Tavecchio in questo momento. Non avevo incontrato Tavecchio in quel periodo lì, quindi ho preferito incontrarlo adesso, no scherzo. Qualche rappresentante sicuramente della federazione che aveva la possibilità di parlare. Ah. Ok. Vabbè, allora non esistiamo oltre, Pardo, perché sennò sì. ti cacci negli stinchi, te ne da due. Però bellissima questa. Sì. No, clamoroso. Ma l'Italia già l'hai studiata? L'hai vista la partita? Che... L'Italia l'ho vista solo con la Francia, non l'ho vista contro Israele. Che vedrò prossimamente, però ero impegnato in altre vicende, tra parentesi. Era impegnato in altre storie. Un'altra curiosità che ho, ma spesso quando si arriva al, non so se questo sia il vertice per l'Albania, quello raggiunto all'europeo, non so quali siano i margini di miglioramento che vedi tu, però spesso gli allenatori tendono, quando sono arrivati al top, a chiudere un'avventura, vero? Io credo, guarda, Carlo, credo che noi innanzitutto abbiamo un girone molto difficile, ma visto e considerato che credo che questa squadra abbia ancora dei margini di miglioramento, l'ho detto anche l'altro giorno a loro stessi e ai ragazzi, è di provare a andare oltre i propri limiti da un certo punto di vista. Nessuno ci chiederà di andare al mondiale, però di provare a costruire ulteriormente un qualcosa di diverso con questa squadra, perché l'hanno dimostrato all'europeo. Squadre come l'Islanda, squadre come l'Irlanda, squadre come anche come noi stessi, che secondo me avremmo meritato anche di andare avanti per quello che abbiamo fatto vedere. E, che il calcio si sta un po' equilibrando. Poi è chiaro che i grandi campioni fanno la differenza e ti fanno vincere le partite. Però non c'è più queste squadre materasso che prendono palanghe di gol, a parte l'ultima partita della Spagna, però voglio dire, lì ci sono delle differenze di sostanza, però al primo tempo era 1-0, non è che ci fossero chissà quali disvalori o quali squilibri, però lì bisogna essere convinti che si possono fare delle cose, che bisogna però far fatica, che bisogna essere anche pronti a poter perdere delle gare, però guardare avanti sempre con fiducia e con coraggio. Se tu pensi di non farcela, non ce la farai mai. Io credo che noi abbiamo delle qualità, magari non eccelse, però messe insieme tante individualità normali, magari si riesce a fare qualcosa di buono. Sì, poi altre realtà ragionano in maniera diversa e lì ci si pone in una maniera diversa. Sì, aspettando l'esplosione di un grande attaccante, magari potrebbe essere Manani. Magari, quello non darebbe fastidio. Però non i nostri due attaccanti hanno fatto gol nella prima partita e questo... indicativo per noi. D'altra parte, Gianni, ieri ci chiamavano un sacco di ascoltatori dicendoci ci piacerebbe rivedere Verratti in Italia, vedrai la partita dell'Italia con Israele, Verratti è stato il migliore in campo, ha giocato una grande partita, finalmente. Sottolineo che Verratti di partite in Serie A ne ha giocate zero. Pelé, che ha raggiunto quota 9 gol in 19 partite, Totti, Boninsegna e compagnia cantante, di gol in Serie A ne ha fatto uno. Ha anche avuto pochissime possibilità di farlo, perché quando giocava in Italia giocava in realtà dove di grandissime occasioni non ne aveva. Poi ha fatto la maggior parte della sua carriera in Inghilterra e credo che comunque abbia maturato delle esperienze. Per il più importante, secondo me, giocare magari anche in una seconda divisione straniera, dove tu giochi magari libero mentalmente e hai la possibilità di testarti in campionati che hanno magari più fisicità, più altre caratteristiche del nostro. Il nostro magari avrà più pressione, avrà più ridondanza dal punto di vista mediatico, anche se io credo che oggi il campionato per antonomasia sia quello inglese, perché ha un fascino superiore, perché sempre maggior gente frequenta gli stadi. Sì. Poi cosa vuoi? Gli altri sono campionati dove il Paris Saint Germain vince, il Bayern di Monaco, mi auguro per Carletto che lo vinca facilmente, così si orienta ancora di più sulla Champions League. Piero, hai un'ultima cosa da chiedere a Gianni? Io voglio chiedere di Verratti e di Berardi, che sono stati un po' i due temi di questi giorni in Italia. La considerazione complessiva, insomma, Ventura ha detto che Berardi rientrerà nei piani, ma per il momento ha scelto il 3-5-2, e quindi capire un po' quella che è la dimensione di questo giocatore, che in questo momento gode di stampa giustamente, legittimamente molto molto buona, e poi appunto capire se è iniziata secondo lui l'era Verratti per la nazionale, perché insomma l'altra sera abbiamo avuto la sensazione che finalmente questo momento, ha rimandato mille volte anche per degli infortuni e delle circostanze abbastanza così estemporanee, questo momento sia arrivato. Beh, il ragazzo non ha mai giocato nella Serie A italiana, ma ha giocato in una grande squadra francese, maturando esperienze internazionali interessanti. Un giocatore che ha qualità, che sa cucire il gioco, che ha visione di gioco. Non è un'ira di Dio fisicamente, però è un giocatore che dà i tempi e che sa gestire una squadra. Questo credo che sia importante. E non dimentichiamo che è giovanissimo. L'altro discorso per quanto riguarda Berardi è un talento che deve essere, secondo me, gestito in maniera adeguata, perché il palcoscenico nazionale è sicuramente diverso da quello che vive a Sassuolo, in una realtà a sua misura, e che può probabilmente dargli ancora la possibilità di maturare come tecnicamente, ma al di là di tecnicamente, che cresca di pari passo al calciatore l'uomo, e credo che questo sia l'aspetto sul quale Ventura lavorerà prossimamente, gli troverà una collocazione, perché io credo che i giocatori di qualità possano sicuramente essere impiegati in campo, e si devono adattare a determinate situazioni in campo dal punto di vista tattico, che si possono trovare gli equilibri nonostante tutto. Se tu pensi che un giocatore sia importante o ti possa dare una grossa mano, una perché non la trovi. Per non fare delle cose, certo. Grazie Gianni, e complimenti per i primi scusatemi, tre. Scusatemi, la situazione non era del massimo, sono impazzito. No, no, no, no, ma adesso va incontrato con Tavecchi, quindi saluto. Sì, adesso ma vediamo. Tu capisci, adesso scusate, ma capite quanto è legato quest'uomo a tutti i convocati? Allora, fa scendere il diluvio universale per poter fare il gol decisivo durante la trasmissione in diretta, il giorno dopo incontra Tavecchio in diretta dopo averlo evocato, cioè esatto. Mi aspetto qualcosa anche domani, solo che ecco, lo intervistassi al posto vostro, non era male, ecco, mi aspetto qualcosa anche domani, perché insomma gli ascolti vanno bene, ma c'è sempre bisogno di materiale. Perfetto, ciao Gianni, ciao, grazie, Carlo, ciao. Ci fermiamo per il traffico, no, per la borsa. Pierluigi, stai lì, torniamo. 800 24 00 24, numero verde, vi aspetto. Tutti convocati. Tra poco, nuove notizie. Pigia il coso rosso, grazie. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Pierluigi Pardo, è il momento di parlare un po' con gli ascoltatori, ma è sempre il momento di parlare con gli ascoltatori, è sempre, tutti convocati ogni giorno ad ogni ora su qualunque argomento. 800 24 00 24, numero verde, c'è chi scrive: ho portato mio figlio di 11 anni a vedere Chievo Inter sull'argomento diserzione o obiezione di coscienza verso gli stadi. Mio figlio di 11 anni a vedere Chievo Inter, per i due biglietti ho speso 58 euro, considera che alcuni settori erano chiusi, quindi obbligo di acquisto solo per altri settori. Due pizze, due bevande, 17 euro. Lo scherzo mi ha costato 75 euro più l'incazzatura per la sconfitta. Giacomo da Prato, buongiorno. Sì, buongiorno. Solo due considerazioni. Allora, la prima è quella riguardo gli stadi mezzi vuoti, perché spesso capita di vedere in televisione a Udine che hanno fatto le poltroncine colorate, adesso sembra diverso lo stadio, ma anche a Firenze. Stadi mezzi vuoti, ma a quel punto non converrebbe fare un tentativo una volta, dimezzare i prezzi e avere lo stadio pieno, e quindi l'incasso sarebbe più o meno lo stesso. A quel punto, e sarebbe anche più scenico e più bello averlo in televisione. La seconda è che mio figlio, che tifa per la Juve, che ha 12 anni, vorrebbe andare a Torino a vedere la Juve, e diventa impossibile perché quei pochi biglietti vengono venduti quasi subito. Poi c'è un'altra parte di biglietti che non si sa come, se te vai a uno Juventus Club e paghi il biglietto sul pullman per andare a Torino, arrivi lassù senza il biglietto e il biglietto c'è, però con un aumento del 60% anche. Perché una volta mi è successo, sono andato a vedere Juventus-Sampdoria quando Icardi fece due gol qualche anno fa, e il biglietto di Tribuna Est che costava 40 euro, io l'ho pagato 60. Quindi io mi domando, ma perché le società si calano le braghe ancora con questa gente a vendere biglietti in questo modo, che non permettono a tutti di vedere una partita, insomma? Questo può dipendere dal club con cui lei è andato. Ora non conosco esattamente queste dinamiche, quanto all'abbassare i prezzi, più tardi proveremo a chiederlo a qualcuno. Tendenzialmente sono molto elevati, soprattutto considerata la situazione attuale, Pierluigi, e questo lo sottolineano in molti, e credo sia uno dei problemi principali. Banalmente, quando prima, fino a 20 anni fa, non c'erano gli introiti dei diritti televisivi. Oggi questi introiti ci sono, e quindi dovrebbe essere un incentivo per abbassare i prezzi dei biglietti degli stadi, tanto più che poi gli stadi in questi 20 anni non sono migliorati, non c'è nessun intrattenimento pre-gara, post-gara, per capirci, all'americana, non c'è spesso nessun comfort. Devo dire che da questo punto di vista la Juve è, al di là di questi aspetti legati ai biglietti, su quali tra l'altro c'è anche un'inchiesta in atto, quindi insomma è un tema ovviamente che merita approfondimento, ma da un punto di vista dello stadio certamente la Juve è all'avanguardia, perché comunque uno stadio che dove la partita si vede bene, uno stadio sicuro perché è sorvegliato, dove guarda caso, spero di non essere mai smentito, la situazione a livello di tafferugli negli ultimi anni è stata molto molto tranquilla, molto serena. Ripeto, al netto poi di una serie di inchieste che ci sono, che so benissimo che ci sono, e lasciamo ovviamente lavorare i magistrati, ma dal punto di vista, diciamo, del clima all'interno dello Juventus Stadium, quello che io posso dire, avendolo frequentato tante volte, è che è un clima assolutamente perfetto, con una percentuale di riempimento molto alta. Certamente c'entra il fatto che la squadra ottenga ottimi risultati, non è un dettaglio, ma secondo me è anche legato alla bellezza di questo impianto, alla comodità di questo impianto rispetto a tanti altri. La Roma sta provando a fare un progetto e sappiamo che insomma che non è, c'è anche altri problemi, ma insomma ha una giunta in questo momento, il governo di Roma, che non è particolarmente interessato, mi sembra, al tema. Però anche lì, se tu fai uno stadio di proprietà, Bergamo è stato messo in vendita lo stadio dal comune, sì, primo caso che si può registrare, cioè il comune, ma che secondo me è anche abbastanza intelligente, no? Sì, assolutamente con Benegori, penso che alla fine quello stadio lì, c'è la possibilità per una società, attraverso una forma di leasing, di pagamento in 20 anni, in 30 anni, di poterlo portare poi a bilancio, di poterlo far diventare un asset che dà anche un maggiore valore di patrimonializzazione alla società. Questo è un grande vantaggio, e deve migliorare l'esperienza dello stadio. Andare allo stadio è la cosa più bella del mondo, certo. Però e non è sostitutivo, la TV non è sostitutiva, la TV non è sostitutiva dello stadio, e chi è andato allo stadio per molti anni, è stato abituato ad andare allo stadio, sa perfettamente, ti dice molto serenamente, che non è la stessa cosa guardare la partita in TV o guardarla allo stadio. Sono due esperienze diverse. Però che la partita si veda, poi invece devi andare a spendere magari 40 euro per un biglietto in un posto di curva dove la partita la intravedi e basta, dove magari il clima non è il massimo, dove c'è gente che non è il massimo, dove devi parcheggiare a 2 chilometri di distanza, cioè è tutta una serie di problemi. Io sono fortunato. Sono strafortunato, lo dico, e credo che tutti i giornalisti che hanno un accredito e quindi non pagano per andare a vedere la partita, anzi vengono pagati per fare il loro lavoro, spesso hanno il parcheggio, è una situazione assolutamente ma pensa soltanto a quanti stadi ci sono ancora in Italia che non hanno banalmente la tettoia, non hanno il tetto. Quante volte vediamo delle situazioni in stadi anche carini, dove però se piove sei lì con l'impermeabile giallo, il classico impermeabile giallo, dirlo, però, è così, ma è realtà, cioè, è semplicemente cronaca. Filippo Maria Ricci è un altro privilegiato, perché per la Gazzetta dello Sport frequenta tutti i migliori salotti calcistici di Spagna. Ciao Filippo, buon pomeriggio. Ciao. Però adesso io sono in uno di questi salotti che tu menzioni, che è il Calderona, che per tre quarti è scoperto, certo. Non è che la Spagna non è l'Inghilterra, Filippo l'ha frequentato tantissimo, tutte e due. La Spagna ha tolto, però, direi, il Bernabeu, forse il nuovo stadio dell'Espagnol, no? Ci sono stati il nuovo stadio di Bilbao, Valencia, bello. Anche se in realtà si bagnano, anche al nuovo San Mamés, con tutto che è nuovissimo, se piove si bagnano le prime file, quindi Però detto questo, qui rimane comunque una percentuale di riempimento molto molto superiore a quella italiana. E cioè, le TV no, ci sono anche lì, ovviamente. Esatto, anzi qui ormai si fanno, non c'è più una partita in contemporanea, è un'altra. Fino alla, per le prime 36 giornate non c'è una partita in concomitanza con un'altra. Sono tutte il mio separate. Paese, il mio paese, la Spagna. Lo spezzatino. Come si dice spezzatino in spagnolo? Esatto. Come non si dice? Non lo so, non c'è lo spezzatino. Sì, appunto, lo chiamano goulash, però il goulash che non te lo posso dire come parola spagnola, però si goulash. Usano la parola goulash. Sì. Come si dice tagliato, spezzettato, il fileteato, come il ciuletone. Il ciuletone fileteato. Sì, allora, adesso devo fermarmi un attimo per il traffico, però se prima abbiamo beccato De Biasi in diretta con Tavecchio... all'aeroporto, questo incontro abbiamo pizzicato in diretta, questo incontro casuale, ti dico che Filippo Maria Ricci era lì con Simeone, e adesso subito dopo il traffico ci racconterà qualcosa. Tutti convocati. I love this game. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna, Asiago, 8-11 settembre. Vi presenta Tutti convocati. Omar da Milano, lei stia lì, ascoltatore in linea, perché oggi è il giorno delle carrambate. Dicevo che Filippo Maria Ricci era al Calderon in compagnia di Simeone. Non so se ne abbia tratto un'intervista che leggeremo domani sulla Gazzetta, oppure ci abbia semplicemente giocato a carte, o abbia mangiato la carne piccata, come suggerisce un ascoltatore, così si direbbe. Giusto, bravo. Spezzatino, bravo. In spagnolo. Che hai fatto? No, presentava le tavole del ciolismo, il suo libro, che si chiama Creer, crederci. Diciamo comandamento numero uno, no, del ciolismo, e no, presentava il suo libro, e devo dire una cosa interessante, si è molto aperto, insomma racconta la sua maniera di vedere le cose, di sentirle, e applica, come si può dire, i dettami del calcio alla vita o viceversa, non si capisce bene il confine tra calcio e vita, cioè l'intensità la fa da padrona, e insomma ci ha spiegato quella che è stata un po' la sua vita presentando questo libro, che devo dire è abbastanza interessante, è diverso dal solito, non è la solita biografia. Sì, togli una curiosità, quanto guadagna? Sai che non lo so, mi prende a bruciapelo così, tanto comunque, non so, ti direi 4-5 milioni. 4, però non sono milioni. Così a bruciapelo, non lo so. Oggi leggo 4-5. 4-5, confermi. Forse più 5 e 4. Perché credo che abbia avuto vari ritocchi in questi anni, anche varie garanzie tecniche, no? Esatto. Quindi, una cosa, se volete, diciamo, di attualità che ha detto, perché ovviamente si parla sempre di un suo ritorno in Italia e via dicendo, lui ha detto no, dice adesso andiamo in un nuovo stadio e voglio accompagnare l'Atletico a un nuovo stadio che verrà inaugurato il prossimo anno, per cui al momento le cose stanno così, poi sappiamo che nel calcio le cose possono cambiare, però sì, insomma, sì, anche se le cose poi non sono cominciate al meglio, no, in questo campionato, cioè, ha fatto due partite contro due neopromosse, due pareggi. Siamo te l'ho detto, ai trailer di campionato in Spagna come in Italia, quindi che contano il giusto. No, ti ho chiesto non a caso quanto guadagnava Simeone, perché oggi sul tuo giornale, come sai benissimo, c'è. Insomma, sì, vengono fatti conti classica, in tasca, no, ormai, alla sì. Serie A, giocatori, monte ingaggi, allenatori. Se guadagna 5 è come Allegri il più pagato tra gli allenatori italiani, e questo può spiegare alcune cose, no Pardo? Sì, no, a proposito della partenza del campionato, sono 4 punti che pesano già molto, perché sappiamo che il campionato di Real, Barcellona e ovviamente delle intenzioni anche dell'Atletico Madrid è un campionato che si basa sulla imperfezione, cioè ogni pareggio è una tragedia, e quindi il fatto che l'Atletico Madrid abbia fatto 2 pareggi con 2 le promosse già la mette insomma in una situazione abbastanza complicata. E sullo stipendio mi pare nettamente guadagnato, nettamente meritato per quello che ha fatto in questi anni, di là delle considerazioni patologiche sul fatto che poi tutti questi esponenti di questo mondo guadagnano tantissimo e non salvano vite umane sicuramente, però questo è il mercato e detto questo Simeone se li stramerita e mi intriga anche il libro perché insomma diciamo che il tentativo di fare una di rendere il calcio metafora, uno sport metafora, un tentativo che viene fatto con continuità, ecco Simeone è uno di quelli che può farlo veramente perché onestamente ha fatto delle cose, si è costruito un'immagine alla quale però secondo me corrisponde anche una realtà, cioè c'è una realtà dietro, sì, certo, certo tipo, c'è sostanza, è un'immagine veramente straordinaria, la famosa copertina della Gazzetta dello Sport, no? Sì, con Simeone, con Simeone Che Guevara, no? È chiaro che è un gioco, una provocazione, però ci sta ed è la ribellione di una grande squadra, perché la Real Madrid è comunque una grande squadra, verso squadre più grandi e che giocano un calcio ancora più organizzato, o meglio, ancora più pieno di talento, e Simeone è riuscito soprattutto in Europa, ma anche in campionato della famosa stagione di 3 anni fa, a fare qualcosa di incredibile. Sì, non a caso è stato coniato addirittura un neologismo, il ciolismo, che è una sorta di filosofia di vita. Non voglio prenderti la sprovvista, Filippo, chiedendoti qual è il monte ingaggi invece dell'Atletico Madrid. Leggo quelli sempre sul giornale rosa italiani. Comanda la Juventus a 145, monte ingaggi, sto parlando, non è molto distante l'Inter a 120, seconda della classe. Per dare un'idea, in Europa quella squadra che ha il monte ingaggi più alto è il Manchester United 304, Real Madrid 209, Barcellona 245, eccetera. Un'ultima cosa invece che volevo chiederti, Filippo, visto che sarà la nostra prossima avversaria, la prima Spagna di Lopetegui, asfaltato, addirittura massacrato, ha massacrato il Materasso, Liechtenstein, no? Esatto, va bene, però è difficile trarre conclusione dalla partita così, no? 8-0. Però ci sono degli spunti. Prima cosa che il primo tempo era finito 1-0, no? Chiaro, poi dopo questi si sono stancati, prendi 2-3 gol, è facile passare da 3-8, no? Però nell'intervallo Lopetegui ha fatto un cambio di sistema, ha cambiato un uomo, è passato alla difesa a 3 e diciamo che quello che si può apprezzare è che rispetto a prima c'è stato un cambio, cioè secondo me ormai il problema di Del Bosque era l'immobilismo, no? Del Bosque ha fatto le 3 partite del girone, le 4 partite che giocano gli europei con gli stessi uomini, e è inutile portarsi 23 giocatori, no? E poi far giocare sempre gli stessi 11, e non è riuscito a cambiare qualcosa. E Xavi, quando io l'ho intervistato, dice occhio perché la Spagna contro squadre che si difendono con la difesa a 3 va male, perché c'era l'esempio del Cile e dell'Olanda, no? Al mondiale non è riuscito a cambiare niente, e anche con l'Italia addirittura di Brandelli nel 2012, no? E non è riuscito a cambiare niente. Lopetegui è partito con un cambio, ha visto che la squadra era in difficoltà e ha fatto un cambio tattico, in più ha cambiato una serie di uomini, ha dato spazio ai giovani. Vediamo, mi sembra una buona Spagna, ma come lo era anche all'Europeo. Sì. Cioè, io ho parlato con Morata dice, io non vedevo tanta gente meglio di noi all'Europeo, secondo me ha ragione, il problema erano un po' gli stimoli. Quando questi hanno pareggiato in maniera rocambolesca la partita con la Croazia, dopodiché sono finiti nella parte sbagliata del girone e da lì si sono un po' persi. Cioè, io li vedo in questo senso, mi sembrano rinfrancati, e hanno ritrovato Diego Costa, e si sono tolti di mezzo il peso delle polemiche su Casillas, sono più leggeri. Sono più leggeri, cioè non toglie che il 6 ottobre sarà un test non solo per noi ma anche per loro, perché sono pure in fase di ricostruzione. Ti dico 6 e 9 perché dopo vanno in Albania, sì. Per cui si possono ritrovare, se sono a 9 punti più o meno sono sicuri di andare al mondiale, se sono a 3 è il dramma, no? Se sono a 5 o a 6, insomma possono esserci tanti scenari. È il primo incrocio molto importante, per tutti quanti. E grazie Filippo. A voi. Ciao Filippo. Pierluigi, parliamo con gli ascoltatori di nuovo. Volevo dire soltanto che dietro a quella partita all'Europeo poi c'è anche la grande prestazione d'Italia. Non lo possiamo dimenticare. Perché è stato così. Insomma, alla fine loro sicuramente con la Croazia hanno deluso, sono finiti nella parte sbagliata del tabellone e poi hanno beccato una grande Italia, perché quella partita con l'Italia a Spagna è stata una delle più belle partite d'Italia degli ultimi, non so, 10 anni, 15 anni, di più, una delle, sì, negli ultimi 20 anni considerati mondiali ed europei, è stata decisamente una delle più belle. Poi ti ripeto, secondo me comunque al di là di questo 8-0 Liechtenstein che conta nulla, per il 6 ottobre, il 6-9 come ricordava giustamente Ricci, sarà un importante test anche per questa Spagna che prova a cambiare pelle, a rinnovarsi. Andrea, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Intanto complimenti per la trasmissione, va bene, quelli. Grazie. Ve li fanno tutti, mi aggiungo anch'io. Allora, io non vado più allo stadio perché... perché io sono di Padova e seguo la squadra della mia città, Lega Pro, perché c'è troppa politica, e almeno io parlo della squadra che seguo, dopo non so negli altri stati cosa ci sia o cosa non ci sia. C'è troppa politica all'interno della curva soprattutto. Durante le partite della squadra che seguo, a un certo punto partono i nazionali, ok, ben venga, braccio destro teso. Non riesco a capire il motivo. Io mi ricordo, non so se ve lo ricordate voi, Cristiano Lucarelli ha giocato nel Padova, sì, in prestito, sì, un anno. Una partita di Under 21, lui ha segnato, giocava a Livorno, giocava la partita di Under 21, erano a Livorno, ha segnato, è andato sotto la curva del Livorno, lui è di Livorno, sì, ben venga, sì, ha alzato la maglia sotto il Che Guevara. La domenica dopo a Padova non sapete cos'è successo, sì, infatti sì, Lucarelli a gennaio è stato venduto. Ricordo l'episodio, ricordo l'episodio, ed è un tema interessante di cui avremo tempo di parlare anche domani. Devo salutare Pierluigi Pardo. Che... assolutamente. Ciao Pier. Ne parliamo. Ciao Pierluigi, ci sentiamo subito dopo. Il GR sarà con noi, Marco Bellinazzo, e approfondiamo questo tema degli stadi vuoti, della diserzione degli italiani nei confronti degli stadi. Parleremo ovviamente anche del Milan e di quello che sta succedendo in queste ore. A dopo. Tutti convocati. Vado a giocare, ci vediamo dopo. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Convocati. Marco Bellinazzo, annunciato prima dal Sole 24 Ore, ciao. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Il ritornello di Rita Pavone, il dubbio di Rita Pavone che diventa quantomani attuale. Beh, diciamo che oggi, quando la scusa è vado a vedere la partita di pallone, le mogli devono crederci sempre, esatto, di meno. Esatto, sta diminuendo, sì, l'affluenza. Questa inchiesta stadi pubblicata sul Sole 24 Ore, sul tuo blog, per cui hai rilevato che da 10 anni gli stadi italiani non sono mai stati così vuoti nelle prime due partite. Gli abbonati sono in calo praticamente ovunque, salvo che nelle tre piazze che sono tornate in Serie A. Si tratta di verificare se è un trend momentaneo, ma secondo me è una grande costante del calcio italiano negli ultimi anni. Sì, c'è chiaramente un elemento legato alla stagionalità dei dati che può essere fuorviante, insomma, però il dato di fondo è che eravamo un campionato in cui la media andava verso i 40.000 negli anni 90, media spettatori a partita, e oggi siamo intorno ai 22.000, 21.000, si gira insomma intorno a questi numeri, si gira anche qui con uno 0, in più, uno 0, in meno, però non si riesce davvero a tornare ai fasti di un tempo. E le ragioni sono tante, in realtà non basterebbe nemmeno una puntata di tutti i convocanti per analizzarle. Perché le ragioni sono tante, e sono in molti casi individuali. Oggi abbiamo anche noi chiesto via Twitter, Giorgio Luca lo ha fatto con Alvise in redazione, le risposte sono tra le più varie e sono tantissime. Costa troppo, a volte ci vado tra tornelli, code, mancanza di comfort, bagni seri, bar decenti, la gente ti ruba il posto, eccetera. oppure ultras incontrollati che urlano contro le forze dell'ordine, se non lo fai rischi tanti motivi. Oppure un altro: autostrada, benzina, biglietti, costi imprevisti, andare allo stadio rischia di costare 200 euro, la pay tv 30 euro al mese. Oppure prezzi troppo alti, complicato fare i biglietti per sé e per altri, e poi diciamolo, spesso non è uno spettacolo all'altezza. Le ragioni, la pay tv io ci credo poco, che possa essere la ragione principale dello svuotamento degli stadi italiani, così come credo fino a un certo punto che una delle ragioni fondamentali siano i problemi di sicurezza. Certamente gli stadi sono nella maggior parte dei casi una schifezza, i prezzi sono molto elevati nel momento attuale, poi abbiamo una squadra egemone del campionato e questo gioca la sua parte, i tornelli, la tessera del tifoso e un quadro di queste ragioni messe tutte insieme. Sì, credo che insomma tocchino queste risposte che ci hanno date gli ascoltatori tutti i vari aspetti di una mancata politica infrastrutturale. Parliamo di stadi che hanno in età media oltre 60 anni, quindi erano fatti per un'altra epoca e per un altro calcio e per un'altra società. Per esempio, tra le segnalazioni ci hanno indicato questo esempio di molto facilmente paragonabile di una partita come Chievo-Verona-Lazio, in cui per assistere alla partita nel settore ospiti l'anno scorso un papà con un bambino pagava circa 30 euro, ora il costo, tra l'altro fatto online, è di 40 euro, cioè 10 euro in più, il 25% in più. Peraltro, fornendo un servizio online, in realtà dovresti risparmiare. Esatto, mentre lì risparmi, stampa del biglietto e quant'altro ti porta a 10 euro in più, che vale un 25% in più. Poi giustamente, insomma, vai a ragionare, se vuoi portare mamma allo stadio, c'è appunto il costo del trasferimento, il mangiare, qualche gadget e la spesa esplode. Ora, il problema vero è che questi soldi in teoria dovrebbero finire poi nelle casse delle società e dovrebbero permettere alla società di allestire uno spettacolo più bello, con attrazioni più belle. Ora, invece, questi soldi generalmente non finiscono nelle tasche della società. Quando a volte mi chiedono come dovrebbero fare Inter e Milan per aumentare i propri ricavi, io faccio sempre questo esempio. Dico, arrivi in metropolitana a San Siro, comincia a camminare, vai verso il tuo ingresso, beh, ogni passo sono un euro in meno, sono soldi in meno che la società incassa, da chi vende le magliette contraffatte, chi fa la ristorazione, ai parcheggi, a merchandising in generale. E quindi diciamo un po' un cane che si morde la coda, perché siccome questi soldi non arrivano alla società, le società non hanno i soldi a loro volta per fare gli investimenti e per aumentare e la qualità dello spettacolo e soprattutto i servizi che vengono offerti e il posto, la casa, il divano, chiamiamolo così, il divano a cielo aperto dello stadio, quello che deve essere un posto, insomma, dicevi bene tu che la concorrenza non è con le PTV, perché noi abbiamo in Europa due grandi esempi in cui ci sono comunque stati pieni. Da un lato la Germania, in cui tra l'altro Sky trasmette tutte le partite, e dall'altro la Premier, in cui viene trasmesso un terzo delle partite in TV per favorire gli stadi, però in ogni caso stadi di qualità fanno sì che lì ci sia un sold out continuo, percentuale di riempimento tra l'80 e il 90%. Chiaro. In Italia il dato più drammatico non è tanto quello dell'affluenza, quanto quello del tasso di occupazione degli stadi e di sfruttamento degli stadi. Parliamo di un tasso del 50%, cioè metà stadio vuoto, il che significa costi inutili che le società sopportano. Assolutamente. E di conseguenza, diciamo, se non si fa una seria politica industriale sugli stadi, è inutile continuare poi a lamentarsi, perché solo quel tipo di politica può produrre, magari in un periodo 4-5 anni, è chiaro, nel medio termine, non da domani, tendenza indispensabile. Senti, do un campione di ascoltatori che sono in linea, a cominciare da Omar, poi Vincenzo, poi un doppio Vincenzo, uno da Chieti e uno da Lodi. Omar, buongiorno. Io volevo dire una cosa, grazie per la convocazione innanzitutto. Io da ragazzo andavo a vedere, sono di Milano, devo vedere sia Inter che Milan, perché le partite le giocavano al pomeriggio. Lo so che sarebbe utopia, però secondo me domenica a Milan-Udinese un 40.000 li fa a San Siro, perché i ragazzi possono andare, possono vedere senza andare di sera alle 9, che lunedì c'hanno la scuola. Secondo me l'ultima partita della domenica, se fosse alle 6, secondo me molti più spettatori, tanto gli stadi sono sempre uguali e sono stati uguali 30 anni fa, ma la gente andava lo stesso. Lo stadio è aggregazione, compagnia, amicizia, tre amici vanno allo stadio a vedere una partita. Anche se io sono juventino, vado lo stesso. Sì, sì, sì, chiaro. Questo è un discorso chiaro. Però Omar ha sentito prima Filippo Maria Ricci, diceva che in Spagna non c'è nessuna partita alla stessa ora di un'altra, quindi è addirittura estremizzato questo discorso. Non si torna più a giocare tutti insieme alle 2:30 come negli anni 70, perché questo è un discorso che ovviamente richiede i proprietari del vapore, che sono quelli che trasmettono le partite. Sì, ma ripeto, io non trovo che ci sia concorrenza diciamo tra pay TV e stadio, nel momento in cui lo stadio ti offre qualcos'altro, qualcosa di bello, qualcosa che ti permette di vivere un'esperienza unica, cioè andare allo stadio e aggregazione, ma trovare anche delle condizioni speciali che ti fanno vivere una cosa diversa dal vedere la partita in TV. È chiaro che nel momento in cui il confronto è l'attuale stadio e la pay TV, insomma, sto a casa, sì. È molto più comodo, è molto più economico. Io so perfettamente, caro ascoltatore, si chiama Alex, ma sono molti messaggi di questo tipo, che la Juventus ha appena fatto il record di abbonati, 29.300 sold out per gli abbonamenti, e però la Juventus, abbiamo detto mille volte che è un caso sui generis, non replicabile in alcun modo, almeno attualmente in Italia. Squadra che vince, stadio nuovo, tutto che funziona, e dunque è il modello, è il normale modello che dipingi tu, Marco Berinazzo. Assolutamente sì, è uno stadio sempre pieno, cioè la Juve è la squadra che ha il maggior numero di tifosi in Italia, uno dei momenti più importanti della sua storia, e ha uno stadio, diciamo, che hanno dimensioni adeguate a quello che può essere l'afflusso, per cui come dire, è normale che faccia questi risultati, come è normale che il Bayern Monaco faccia da 4 anni sold out. Sì, sì. Vincenzo Chieti, buongiorno. Buongiorno. Allora, devo dirti due cose, scusami. Sì. A me allo stadio mi è sempre piaciuto andarci a vedere la partita, perché è tutto diverso vederla in televisione. Sì. Poi queste fatte che voi dite, i stadi sono più belli, brutti, ma allo stadio che devono fare? Scusa, la partita deve giocare. Mica ci vanno a fare la spesa allo stadio io, o il ristorante. Però un conto è se si trova in un posto civile, comodo, con il suo seggiolino, con un accesso facile. Un conto è se si trova, faccio un esempio che ho fatto prima, ma del tutto casuale, lo Stadio Azzurri d'Italia, che è uno dei più antichi e disagiati, in quelle condizioni. Stadio Azzurri d'Italia, che sappiamo è stato messo in vendita dal comune di Bergamo, con eccellente iniziativa, l'Atalanta è interessata, ovviamente è necessaria una profonda ristrutturazione. Poi un conto è andare a vedere la partita di Serie C uno stadio da 6.000, un conto è andare a uno stadio Serie A. Sì, ma poi insomma, quando si dice cosa si va a vedere lo stadio, la partita, ma ci vai anche un po' prima, vai al bar, vai al ristorante, magari dopo vai al cinema, o addirittura vai nel locale notturno, come accade al Santiago Bernabéu di Madrid. Forse insomma il nostro amico magari ha una visione un po' più antiquata, è giusto che ci romantica, così, romantica, in cui si va solo a vedere la partita. Per le società è importante che si faccia anche altro, perché significa più guadagni, e per i tifosi, ripeto, essere avere a disposizione una poltrona da ma stadio, sì, anziché Marco, una poltrona da casa. Un luogo, semplicemente lo stadio deve essere un luogo contemporaneo, no? Non ti dico qualcosa di astronavi o cose del futuro, semplicemente un luogo, un normale luogo di aggregazione per il 2016, e non un letamaio come molto spesso capita. Io vorrei coinvolgere nella discussione Vincenzo D'Arò di Lei Stia Lì, ascoltatore 800240024, Claudio Fenucci, che è l'amministratore delegato del Bologna, che peraltro è in controtendenza rispetto ai dati che stiamo spiegando, perché il Bologna ha incrementato in questa stagione il numero degli abbonati che credono comunque in questa squadra. Buongiorno. Buongiorno. Senta, le faccio subito una domanda a bruciapelo, visto che questo è uno degli argomenti su cui insistono di più gli ascoltatori, i fruitori dello stadio, eccetera. Ma non è possibile abbassare i prezzi dei biglietti per un club di Serie A? Cioè, abbassare i prezzi dei biglietti magari significa duplicare, vado a caso, duplicare l'affluenza, comunque fare un incasso, creare una cornice, e questo non è banale, non è un dettaglio, una cornice più adatta per la trasmissione televisiva della partita. Non è possibile praticare una politica di questo tipo? Ma in realtà io ho un'esperienza ventennale, posso dirle che la domanda secondo me non è così elastica rispetto al fattore prezzo. Ci sono delle cause strutturali che secondo me vanno al di là del caro, del presunto caro biglietti che abbiamo nel nostro paese, anche perché confrontando le statistiche che ci dà la federazione del prezzo del biglietto medio in relazione al salario orario medio, vediamo che l'Italia non è fuori, diciamo, da quelli che sono i parametri degli altri paesi europei, anzi è, diciamo, a metà della classifica. Quindi in realtà non c'è un problema del caro biglietti, c'è un problema della qualità dell'ospitalità all'interno dello stadio in tutti i settori, in funzione ovviamente del costo del biglietto e soprattutto anche dell'alternativa, cioè il prezzo dell'abbonamento televisivo, perché non scordiamoci che noi siamo, diciamo, uno dei pochi paesi, anzi l'unico forse, che offre più, diciamo, quasi lo stesso numero di eventi sportivi su due piattaforme televisive, che negli ultimi anni hanno, al di là del differente qualità del prodotto, hanno molto incentrato la competizione sull'aspetto del prezzo. Volevo chiedere io una cosa al dottor Fenucci, che ho imparato a conoscere, insomma, che è uno sicuramente dei dirigenti sportivi più competenti che abbiamo in Italia. La proprietà del Bologna, la proprietà americana, il presidente Saputo per esempio ha ristrutturato lo stadio di Montreal, la sua squadra che gioca nella MLS, e c'è un importante progetto che sta andando avanti anche su Bologna, peraltro anche lì scontrandosi con noi tanti problemi italiani, per esempio sui vincoli che ci sono, sui vincoli architettonici per lo stadio Dall'Ara. Volevo chiederle a che punto è il progetto, insomma, e se ritiene che sia indispensabile per tutto il movimento calcistico procedere a interventi di questo tipo. Ma io credo che sia uno dei fattori strategici di sviluppo per far recuperare, sia a livello competitivo, anche quindi a livello economico, il terreno che ha perso il calcio italiano negli ultimi 15 anni, perché se guardiamo quello che erano i fatturati dei club, non dico 20 anni fa, dove eravamo in assoluto, dominavamo in Europa, ma anche 10 anni dal 2005, troviamo che i club italiani fatturavano più o meno quello che fatturava lo United, forse più di quello che fatturava il Barcellona. Da quel momento in poi, diciamo, le scelte strategiche che si sono fatte insieme ad altri fattori che sono quelli tipici del paese, hanno fatto sì che il calcio italiano ha perso terreno, e oggi è la quarta lega europea, è quella che strutturalmente evidenzia i maggiori perdite in termini di bilancio. Quindi sicuramente una riflessione su quello stadio andava fatta e va fatta tuttora. Non avremo probabilmente competizioni importanti che possano aiutarci in questo processo di strutturazione, quindi non ci sono fondi pubblici come è accaduto in altri contesti di ristrutturazione, cioè i mondiali per la Germania o in Inghilterra con la National Lottery, quando è partita la riforma seguente al documento Taylor. Quindi bisogna in questo momento cercare delle strade innovative con la collaborazione delle istituzioni locali, perché effettivamente la legge consente, attraverso le compensazioni, di portare avanti dei progetti solidi che non siano ovviamente né delle speculazioni edilizie, ma che non rappresentino una mera ristrutturazione dello stadio, perché oggi il calcio, risorse per poter autonomamente portare avanti un processo di ristrutturazione degli stadi, non ne trova con difficoltà. Senta, ma quindi lei sostiene che il nodo del problema, come in parte dice anche Berinazzo, è il fatto che la poltrona allo stadio non è adeguata, che il luogo non è adeguato, non è contemporaneo, come dicevo io prima. C'è un ascoltatore da Treviso, Daniele, che sottolinea come Audi nello stadio è nuovo, di zecca, e continua a non andarci nessuno. Ora vediamo in questa stagione. No, ma ha ragione, perché è un problema di dimensionamento degli stadi in relazione anche rispetto con la competizione che può portargli ovviamente la televisione a pagamento codificata, e i due segmenti dovrebbero andare insieme, cioè il calcio dovrebbe costruire, come dice, un prodotto che sia televisivamente vendibile, a questo punto non solo in Italia ma soprattutto all'estero, dove sono i margini di crescita superiori, e nel contempo rifare degli stadi che siano adatti a questa trasformazione del consumo del prodotto calcistico. E per questo non è un problema quantitativo delle dimensioni degli stadi, ma soprattutto qualitativo, quindi gli stadi vanno tarati a seconda dei riferimenti, dei bacini di utenza di ogni singolo club, ma vanno riempiti di facilities che consentano ovviamente poi, ecco, uno sfruttamento nel tempo, cioè nel tentativo di aumentare la permanenza del tifoso all'interno dell'impianto, che non sarebbe solo poi un vantaggio economico, ma rappresenta anche un grande salto culturale, visto ovviamente il senso di insicurezza che oggi gli impianti offrono soprattutto alle famiglie. Certo. Marco, se non hai qualcos'altro da chiedere al dottor Fenucci, se no... Un'ultimissima cosa, ma veloce, no, volevo appunto, forse prima appunto ha fatto una spiegazione più ampia su Bologna, sulla procedura. Sul Bologna noi abbiamo comunque intanto iniziato l'anno scorso un processo di ristrutturazione di alcune aree interne per migliorare l'ospitalità per le aziende, visto che il territorio ci offriva questa opportunità. C'è un grande interesse da parte delle aziende locali sul progetto del Bologna e quindi abbiamo investito quasi 5 milioni per migliorare le sale ospitalità e quindi dare un servizio diverso alle aziende che si affiancano al nostro brand. E per il resto stiamo continuando a progettare dei piccoli interventi. Abbiamo invece presentato adesso alla sovrintendenza del comune un progetto di ristrutturazione dell'impianto che prevede l'avvicinamento delle curve con la creazione di spazi commerciali dietro le nuove strutture e la copertura integrale dell'impianto, che è un altro dei fattori fondamentali per riportare la gente all'interno dello stadio. Su questo, ovviamente, facendo i primi calcoli, ci vuole la collaborazione in maniera chiara e trasparente, come dicevo prima, delle istituzioni locali, perché da solo il club non può affrontare un investimento così importante e quindi stiamo verificando con il comune se ci sono una strada per ottenere delle licenze compensative o nell'antistadio, dove il comune, secondo il loro progetto di sviluppo urbano della città, intenderà concederle, e tutto questo nella massima trasparenza, perché abbiamo costituito una real estate controllata dal Bologna in cui tutti quanti potranno verificare esattamente quello che stiamo facendo e tutti i ricavi poi che queste società genererà finiranno nel Bologna, quindi non ci sono iniziative parallele estate legate alla ristrutturazione dello stadio. Grazie, io la ringrazio dottor Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, grazie di questo contributo molto esplicativo. Okay. Grazie. Bene, no, assolutamente. Ho detto che Bologna è una delle piazze, insomma, su cui sta lavorando molto. Saputo a questa esperienza da Montreal, immagino che sia stato molto più semplice farlo a Montreal che a Bologna. È stato molto più semplice farlo ovunque rispetto all'Italia, Bologna compresa. C'è chi mi scrive: non riesce a parlare della Fiorentina nemmeno quando è seconda solo alla Juventus come numero di abbonati. Sì, Fiorentina, 20.010 abbonamenti venduti, seconda solo alla Juventus, però meno 3,68%, che non è nemmeno moltissimo rispetto all'estate molto difficile che ha vissuto la Fiorentina. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Siccome sono mezzo ciociaro e sì, so che anche lei l'anno scorso ha fatto alla fine del campionato lo scorso ha fatto i complimenti anche al pubblico del Frosinone, non ricordo bene, esatto. Li rifaccio. A me risulta che il Frosinone potenzialmente poteva superare anche la Juve per quanto riguarda il tesseramento, se non fosse che la famosa politica ha avuto a che fare col presidente Stirpe, che avrebbe desiderato fare un'operazione tipo Juve per quanto riguarda lo stadio, chiaramente come costruttore con qualche interesse, ma ai fini anche di portare il pubblico in un posto. E siamo al discorso di prima, siamo grosso modo al discorso di prima, quello che abbiamo fatto con Fenati, prezzi bassi, prezzi accessibili, perché io continuo a insistere su questo. Su questo punto, anche perché insomma, la voce che esce dagli ascoltatori, dai lettori, da chi si interessa a questo problema, grosso modo ci riporta a questa linea. Mi spiace, non riesco a parlare con Marco, tuo omonimo Belinazzo, dalla provincia di Lucca, Gianluigi dalla provincia di Novara, ma riapriremo ovviamente. Sì, mi sa che è un tema molto, molto caldo. Molto caldo, come caldo è il tema del Milan, che non abbiamo il tempo di affrontare, ma è arrivato il grano cinese. Sì, è arrivato il grano, il problema ora sarà chiudere, provare a fare un bel mercato a gennaio. A gennaio bisognerà capire chi lo farà. Insomma, a questo punto. Bravo, adesso si tratta di capire chi guiderà il vaporetto rossonero. Grazie Marco Belinazzo. Grazie, a presto. Allora, ringrazio anche Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Visa Falzone in redazione. Ci sentiamo domani alle 2, tutti presenti e tutti convocati, soprattutto alle 14. Buona serata a tutti, belli e brutti. Agli invidiosi!